Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Studenti nello spazio, di questo vi parleremo all'inizio di questa puntata di Möbius. Benvenuti, benvenuti, adesso sentiamo i titoli e poi cominciamo. Studenti nello spazio e lanceranno il loro satellite intorno alla Luna. Si sente odore di bosone di Higgs? La notizia è uscita dal CERN, ma non è ufficiale e va presa con grande cautela, dicono i ricercatori. Inizia Vedere la Scienza. È l'unico appuntamento italiano dedicato a fiction, documentari e multimedia in genere, su tematiche scientifiche. Questa settimana gli ascoltatori ci hanno chiesto: è possibile avere dei camion filobus sulle autostrade? E Möbius risponde: si deve costruire la casa e sottoporla a 10 test. Così si partecipa alla prestigiosa Solar Decathlon, gara mondiale per edifici ecosostenibili. Alice Bonfanti è già qui in studio con noi, del Politecnico di Milano. Alice, salve. A tutti. Francesco Capolupo. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Altri mancano, dell'Università dell'Aquila per quanto riguarda l'Italia, però il progetto è europeo. Ciao Chiara, sei qua di fianco a me. Mi sostituisco io, diciamo. Esatto. E il progetto è lanciare un satellite in orbita intorno alla Luna. Alla Luna, sì, intorno al 2014 è previsto. Il progetto consiste nell'andare intorno alla Luna e lanciare dei volantini con i vostri curriculum per vedere se riuscite a trovare un posto di lavoro. Vedo delle facce. Ora del 2014 non è... potrebbe anche essere auspicabile. Beh, non è forse questa la mission? No. Quindi è scientifica. Sì. Ha una sbadataggine tremenda. Un'occasione come questa di trovare posto da qualche parte, la lasciate sulla Luna perdere. Magari, quello potrebbe essere concreto. Ma girerà intorno alla Luna e quindi andrà a vedere anche la faccia. Quante volte girerà intorno alla Luna? Parecchie volte, la missione, la vita operativa è di qualche anno di questa missione. Allora Chiara, sintetizza un attimo tu, il progetto è europeo. Sì, il progetto è dell'Agenzia Spaziale Europea, con una forte ovviamente componente anche privata di un'azienda britannica. Ma Alice, intanto introducici questa iniziativa che è un bel progetto, soprattutto avete partecipato voi studenti, quindi insomma dovreste esserne veramente orgogliosi, no? Sì, infatti siamo veramente orgogliosi di questa grande esperienza che ci è stata offerta di poter partecipare. ESMO di per sé, che è l'acronimo di European Student Moon Orbiter, è un progetto appunto commissionato da ESA e dà in mano questo progetto di una missione spaziale a 250 studenti di 21 università europee, tra appunto c'è anche il Politecnico di Milano con 22 squadre e l'Università dell'Aquila. È un'esperienza grandissima per noi, e ci occupiamo essenzialmente in Italia del sistema propulsivo e del gruppo, il gruppo ancora del Politecnico, anche del sistema di controllo d'assetto. Allora, partiamo magari dal tuo gruppo e poi passiamo a Francesco. Voi vi occupate di propulsione, ecco, magari spiegaci che cosa significa e che tipo di apporto, insomma, avete dato a questo satellite. Beh, il sistema propulsivo è una parte fondamentale, in quanto deve fornire la spinta necessaria per riuscire ad andare in orbita attorno alla Luna. Quindi ci occupiamo del dimensionamento e della costruzione di tutto quello che va dal serbatoio contenente combustibile ossidante fino ai motori. Basti pensare che il satellite pesa circa 200 kg e il 93 kg circa sono solamente del sistema propulsivo, quindi siamo sicuramente è una parte grandissima. Siete una parte fondamentale. Esatto, senza di noi sicuramente non andiamo in orbita. Oh, per non creare confusione, per mandarlo su si userà un lanciatore, per esempio Ariane, roba di questo genere, ne parliamo spesso noi di questi. Poi dopo però deve arrivare attorno alla Luna. Ma e poi starà lì intorno per un po' di tempo e starà lì sempre anche. E di questo si occupa la squadra di Francesco, di orientarlo, di cercarlo, esatto, di orientarlo e di fargli fare il suo mestiere. Insomma. Esatto, io partecipo nel team di controllo di assetto e in pratica il compito di questo team è di creare quel sottosistema in grado di controllare l'orientamento del satellite rispetto alle stelle e rispetto al Sole, perché noi dobbiamo anche acquisire potenza elettrica, quindi rispetto al Sole. E quindi in questo progetto noi abbiamo il compito di sviluppare questo sottosistema, quindi sceglierne i componenti e vedere che questo sottosistema sia in grado di effettuare tutte le manovre necessarie con una certa precisione. Ecco, una volta in orbita che tipo di informazioni ci darà il satellite ESMO? Una volta in orbita l'obiettivo del satellite è quello di prendere delle foto, soprattutto a scopo didattico, della superficie lunare, quindi possono essere richieste dalle scuole superiori queste foto, noi le prendiamo tramite questo sistema e le inviamo a terra, e poi ci sono altri diversi esperimenti in orbita, nel satellite, per esempio c'è un radiometro a microonde passive che sarà in grado di effettuare dei rilevamenti sulla temperatura della superficie lunare e quindi darci a terra tutti i dati sulla temperatura da cui puoi ricostruire altre grandezze specifiche della Luna. E quanto durerà il tutto? Tutta la missione una volta in orbita? Il tutto durerà all'incirca 5 anni, penso. Quindi un lavorone. Beh, poi dipende dalla vita operativa del sistema, fino a quando riusciamo a controllarlo, diciamo, e fino a quando è possibile avere dei dati buoni dal satellite. Mi pare che siano coinvolti numerosissimi studenti, perché abbiamo detto che è internazionale, soltanto un gruppo è formato da 25 persone, quindi un rapido calcolo, Alice, quanti siete in realtà a lavorare a questo progettone? In tutta Europa circa 250 studenti, comunque poi dipende molto dal sottogruppo, ad esempio noi siamo circa una ventina di persone, ma Francesco collabora a un gruppo, diciamo, più piccolo, dipende un po' anche dall'organizzazione, semplicemente dalla squadra, però sicuramente un lavoro enorme. Sì. Cosa vi sembra la cosa più difficile che state incontrando adesso agli inizi in questa impresa? Francesco. La cosa più difficile è rapportarsi con una missione vera, perché spesso l'università affronti la teoria. Fa simulazioni e non... Però poi quello che è una missione vera comporta aspetti che tu non prevedevi di dover affrontare, per esempio gli aspetti manageriali di gestione del progetto. E questa è una sfida, una bella sfida, però è anche una cosa nuova che ti invoglia ad imparare nuove cose, diciamo. Perché Alice? Voi dovrete anche stare attenti ai costi, no? Esatto, soprattutto ai costi, o comunque prendere degli strumenti, cercare degli strumenti e delle strumentazioni adatte per il nostro satellite a prezzi ragionevoli. A prezzi ragionevoli. Ci sarà un budget, no? Da rispettare abbastanza. Non abbiamo ancora ben chiaro quanto sia il budget massimo, è ancora da definire. Beh, certo, ma andiamo normale. In economia, diciamo. Più riusciamo a risparmiare, meglio è. Anche per me l'aspetto, diciamo, più nuovo da affrontare è quello il doversi rapportare comunque con tantissimi altri studenti di tutta Europa, quindi è un aspetto che di norma in università non viene affrontato a questi livelli, e, diciamo, è il più difficile, però è anche molto gratificante e sono sicura che comunque servirà molto anche in un ambiente lavorativo, si spera sempre in campo spaziale. Speriamo. Però siete in bocca al lupo. Sì, moltissimo. Sì, siete. Sì. Però questa roba dei volantini, se mi perdete questa occasione qui... Vabbè, adesso nel 2014 li rinvitiamo, ci facciamo spiegare tutto. C'è sempre tempo magari per un satellite intorno a Marte. Grazie Francesco, grazie Alice e poi vabbè, ringraziamo anche tutti. E in bocca al lupo ragazzi per la missione. Grazie. Arrivederci. Vi devo segnalare una cosa importante, cioè che questo progetto, per quanto riguarda la componente italiana, ha un suo sito che è www.esmomilano.it. Lì trovate tante altre informazioni appunto su questa missione. Però è anche importante che sappiate che questo gruppo cerca degli sponsor e quindi, insomma, se potete dargli una mano, tanto di guadagnato. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siamo arrivati al nostro quiz, state pronti, pronte, perché parleremo di filobus in autostrada praticamente. L'interrogativo di questa settimana è direttamente connesso a un'altra domanda, quella che ci arriva da un ascoltatore che ha seguito Mebius la scorsa settimana, sa che abbiamo aperto questo spazio, volete sapere qualcosa? Un interrogativo scientifico e noi vi diamo la risposta. Bene, la domanda alla quale troverete risposta nell'ultimo servizio è la seguente: perché non dotare le autostrade di una rete elettrica, tipo ferrovia, alla quale dei camion potrebbero agganciarsi come filobus, insomma, e poi al termine dell'autostrada proseguire perché dotati di motori normali, una classica soluzione ibrida con evidenti riduzioni di CO2. Le alternative sono semplici, quindi vi pare questa una buona idea? Allora ci scriverete no con l'SMS, due invece sì, è una buona idea, ci scriverete sì, la terza è sì e no, perché ci si doveva pensare prima alla costruzione delle autostrade, quello era il momento in cui poter intervenire con queste innovazioni, e ci scriverete sì no. Come vi dicevo, ci manderete il solito SMS, 349-238-6666 è il numero. Il libro che si vince è L'universo a dondolo, la scienza nell'opera di Gianni Rodari, scritto da Pietro Greco, edizioni Springer Verlag. In collaborazione con IBS.it. Ve l'abbiamo già detto più volte, no? La caccia al bosone di Higgs è ormai incominciata, la particella, questo bosone che potrebbe dirci perché abbiamo una massa, se poi non ci fosse altri bei problemi di fisica dell'universo da risolvere. Però la caccia è così intensa e coinvolgente che qualche cosa, insomma, non vi sto ad anticipare. Ascoltate Barbara Gallavotti. C'è una grande eccitazione al CERN di Ginevra. L'acceleratore LHC è ora ufficialmente il più potente al mondo. Ha raggiunto cioè una luminosità da record. La luminosità è un modo per misurare la quantità di urti fra particelle che avvengono all'interno dell'acceleratore. Più urti ci sono, più sono i dati che possono portare alle scoperte che i fisici aspettano da tempo. L'eccitazione però può giocare strani scherzi. Così avviene che una nota interna, riservatissima, finisca nell'email di qualche migliaio di persone. E questa nota interna, addirittura, fa pensare che LHC abbia trovato quella sorta di santo graal per cui è stato costruito. Avrebbe cioè scoperto il bosone di Higgs, la sfuggente particella che i fisici cercano da molto tempo. Quella particella che ci consentirebbe di capire perché esiste quel qualcosa che chiamiamo massa. Si tratterebbe della scoperta del secolo, sulla quale però ufficialmente il CERN mantiene il più stretto riserbo. Ci è parso quindi il momento per riparlare con Sergio Bertolucci, direttore di ricerca del CERN, che più volte abbiamo incontrato qui a Mebius. Buonasera. Buonasera, come state? Tutto bene? Tutto bene, ma voi l'avete trovato o no questo bosone di Higgs? Il bosone di Higgs mi sa che ancora si nasconde a noi. E come sapete c'è stata questa nota interna che non è rimasta molto interna. La collaborazione adesso sta facendo tutte le sue verifiche e chiaramente molto probabilmente si tratterà di un eccesso di entusiasmo. La cosa importante però è che da ora in poi la caccia al bosone di Higgs è aperta sul serio, non soltanto da parte di Atlas ma anche da parte di CMS. Ecco, Atlas e CMS sono i due esperimenti concorrenti che tutti e due sono collegati a LHC e Atlas è quello che in questo momento è parte in causa perché avrebbe visto questo segnale che ha creato eccitazione. La cosa bella è che i due esperimenti sono in competizione e nello stesso tempo sono in collaborazione e siccome hanno la stessa sensibilità per scoprire nuova fisica, in particolare per scoprire il bosone di Higgs, i loro dati possono essere usati innanzitutto per utilizzare al meglio il metodo scientifico, cioè la ripetibilità degli esperimenti e dei risultati sperimentali, e poi anche per combinare questi risultati per dare maggior significatività al risultato. Ecco, ma mi tolgo una curiosità. Che cos'è che voi vi aspettate di vedere? Abbiamo visto per altre particelle le tracce lasciate nei vostri strumenti erano delle spirali, dei cerchi. Qual è la firma del bosone di Higgs? Il bosone di Higgs può rilasciare moltissime firme. In realtà la più spettacolare e la più, diciamo, distintiva o la meno ambigua, se volete, è il bosone di Higgs che decade in due particelle senza massa, in due fotoni. Ed è in qualche maniera incredibile che uno vada a cercare il bosone di Higgs, che è la particella che dà la massa a tutte le altre particelle, andando a vedere il suo decadimento, peraltro abbastanza raro, in due particelle senza massa, in due fotoni. Sarà una specie di ricciolo dal punto di vista visivo. Da un punto di vista visivo vedremo due grandi blob di energia a un certo angolo, uno dall'altro, in modo tale che ricostruendo dall'energia, dall'angolo tra questi due rilasci di energia, si ricostruisce la massa di questo bosone di Higgs. E questo viene osservato un po' come misurare la temperatura di questa particella con un oggetto che ne misura l'energia, che si chiama calorimetro. Quando saprete se quello che questo esperimento Atlas ha individuato è veramente il bosone di Higgs? Lei mi ha detto che lo ritiene improbabile, però insomma, quando è che avrete una risposta definitiva? Molto presto, nel giro di pochi giorni. Di fatto le collaborazioni stanno esaminando questa nota, questa analisi, e possono sfruttare moltissimo il fatto che, come lei ha ricordato prima nella sua introduzione, l'intensità della macchina in questi giorni sta passando da record a record, in modo tale che la quantità di eventi che raccogliamo ogni settimana è il doppio di quello che raccogliamo la settimana prima, la settimana precedente. Questo qua permette di ripetere, se vuole, questo esperimento molte volte e di avere per cui una significanza dal punto di vista statistico molto alta, per cui se il segnale è un segnale vero, diventerà sempre più grande fino a che non sarà più dubbio, in qualche maniera confondibile col fondo. Sì. Ecco, questo è l'altro punto cruciale. Voi adesso avete ufficialmente l'acceleratore di particelle più potente mai costruito dagli esseri umani. Sì, è vero. In questo momento la macchina è arrivata a una luminosità che nelle unità in cui vediamo noi è diciamo 5 per un numero 10 alla 32. E il precedente record era del Tevatron di Fermi, era 4 e 10 alla 32, quindi in questo momento LHC non solo è la macchina di più alta energia del mondo, ma anche la macchina di più alta intensità del mondo nei collider protoni. Ecco, il Fermilab di Chicago, lei accennava, che però riesce ancora a far parlare di sé. Di pochi giorni fa una notizia importante, ce la racconta? Il Tevatron sta concludendo la sua fase di presa dati, ma non sta concludendo la sua fase di analisi dei dati raccolti nel corso della sua lunga vita, una vita non solo lunga ma anche di successo. Analizzando i dati presi negli ultimi due anni, i ricercatori di uno degli esperimenti, che si chiama CDF, ed è uno dei due esperimenti del Tevatron, hanno visto un'anomalia che, se confermata, direbbe che c'è della nuova fisica che addirittura non potrebbe essere spiegata soltanto con bosone di Higgs. Chiaramente, di nuovo, la indicazione è ancora un'indicazione che statisticamente non è conclusiva, per cui non solo l'altro esperimento del Tevatron, ma anche gli esperimenti di LHC stanno guardando attivamente in questo, augurandosi che questo non sia un effetto, una fluttuazione, ma che sia un effetto vero. Ecco, nuova fisica, un nuovo modo per descrivere l'universo. Uno dei nuovi modi per descrivere l'universo è la cosiddetta supersimmetria, che ipotizza l'esistenza di un universo di particelle in qualche modo corrispondente ma ignoto a quello formato dalle particelle che conosciamo. Voi avete sempre detto che se esistesse la supersimmetria sarebbe una delle prime cose che LHC dovrebbe vedere. LHC è in funzione da qualche mese, ancora supersimmetria non ne ha vista. Vuol dire che non c'è? Ma no, vuol dire che la supersimmetria si può realizzare a diversi livelli di energia, e chiaramente con più prendiamo dati e più esploriamo l'alta energia. Oggi siamo arrivati a esplorare energie o masse, se vuole che la stessa cosa, dell'ordine di 600 volte la massa del protone. Nel corso di quest'anno esploreremo masse superiore a 1000-1200 volte la massa del protone, e questo qua ci dovrebbe portare nel posto, nella regione di energia più probabile per l'esistenza della supersimmetria. In realtà noi avremo bisogno ancora di un po' di tempo per esplorare tutta la regione in cui la supersimmetria si potrebbe realizzare, e questo prenderà un po' di tempo. Chiaramente in ogni momento potremo scoprirla. Se non la scoprissimo, avremo scoperto un'altra cosa importante, che la natura più scaltra dei fisici e ha trovato sistemi più intelligenti, magari più spettacolari ancora, di risolvere il problema che la supersimmetria risolverebbe, che è quello della materia oscura. Cioè di una forma di materia che deve essere presente nell'universo, ma che per ora non sappiamo che cos'è. Esatto. Bene, grazie Sergio Bertolucci. Mi auguro di risentirla a breve per qualche risultato, questa volta non da riesaminare, ma certo. E le auguro buon lavoro. Ma da annunciare. Grazie, sì. Grazie. Buonasera a tutti. Buonasera. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Guarda che la prima notizia, Chiara, è quindicesima edizione, perché un festival culturale scientifico, sì, che arriva alla quindicesima è proprio una notizia. Che festival è? È il festival Vedere la Scienza, che è appunto un festival del cinema scientifico, veramente una cosa più unica che rara, soprattutto nel nostro paese, e che sia arrivato alla quindicesima edizione è proprio già un fenomeno di per sé. La nostra ospite ce lo confermerà. In Italia è l'unico, ma credo che anche in Europa ce ne siano pochissimi. Non è solo lo fiction, ma c'è anche documentari, anche corti, prodotti multimediali, sì, per la rete. Va bene, però incominciamo da... Orson Welles speaking. How would you like to stay just as young as you are, not to grow a day older for the next 200 years? Girls, just imagine what that means. La voce di prima, magari qualcuno l'avrà colto al volo, però insomma, sì, una però voce... era molto riconoscibile. Adesso sì. La nostra ospite ci introduce tutto, sia su questo filmato, questo audio che abbiamo sentito e che ci ha inviato, e sia sulla grande manifestazione di cui dobbiamo parlare. Vero Antonella? Sì, buonasera agli ascoltatori. Antonella Testa, direttrice del programma scientifico di tutto questo festival. Allora, che cos'era questo primo inserto? A che cosa si riferiva? La voce che avete sentito era Orson Welles, che simpaticamente dà il via a uno dei film, dei 50 film di Vedere la Scienza, Immortalità, che tratta un tema abbastanza entusiasmante. Saremo in grado di garantirci l'immortalità nel futuro? Chissà. Saremo in grado o no? Saremo in grado. Il documentario alla fine ovviamente non risponde, perché le ricerche a questo punto danno speranze, ma nello stesso tempo fermano anche gli entusiasmi. Le ricerche sono quelle in particolare di Elizabeth Blackburn, premio Nobel nel 2009 per la medicina, colei che ha scoperto questa particolare capacità dei telomeri di garantire il cromosoma dalla degradazione che naturalmente avviene e quindi in un certo senso garantire una sorta di immortalità ai cromosomi. Sarà vero? Staremo a vedere. Intanto però la Blackburn scopre anche che il rovescio della medaglia è lo sviluppo del cancro, quindi come dire, da una parte tanto entusiasmo, dall'altra tanto... Certo, le due facce della medaglia. Questo ovviamente è uno dei tanti. Quando iniziamo, Antonella, il festival? Iniziamo il 2 maggio e finiamo l'8 maggio, tutta la settimana. Quindi tutta la prossima settimana. Sì, dalla mattina alle 10 fino a mezzanotte, con tanti temi. Scienze della vita e della salute è il primo che abbiamo nominato, ma abbiamo anche astronomia, abbiamo l'avvento dell'uomo sulla Terra. Sì, diciamo che spaziate su tutte le scienze e con tutti anche i generi cinematografici. Ecco, forse vale la pena dire che chiunque fosse interessato può andare sul sito, mettendo sul motore di ricerca, è molto semplice, vedere la scienza, migliore, sì. Può scaricare il volantino con tutte le informazioni, e perché è inutile sarebbe elencarli tutti, perché sono veramente tanti film in programma. Per sapere se saremo immortali aspettiamo la 500ª edizione, esatto, del Festival della Scienza. Intanto andiamo avanti. Come andiamo proseguiamo? Avanti, perché cosa c'è d'altro? Un tema importante cos'è? Uomo e ambiente, no? Mi sembra di capire. Lunedì mattina, ora zero. La storia della Terra ha inizio. Per più di un giorno, in un arco di tempo che supera il miliardo di anni, la Terra è una massa incandescente e gassosa che comincia il suo viaggio nello spazio intorno al Sole. Allora qui, Antonella, prendiamo l'inizio proprio dell'ambiente. Sì, qui fondamentalmente abbiamo compresso la storia della Terra, 4,6 miliardi di anni, in una settimana. E se vogliamo andare a vedere in parallelo quanto corrisponde alla vita dell'uomo, sono solamente 3 minuti. Quindi, siamo proprio un'inezia. Sì, un'inezia. Il documentario ci racconta la storia della Terra, ma nello stesso tempo focalizza anche il nostro ruolo sulla Terra. In quei 3 minuti abbiamo fatto di tutto, di più. E infatti, questo diciamo che è un documento piuttosto idilliaco, in cui l'uomo ha un buon rapporto con l'ambiente, ma poi c'è tutta la parte in cui l'uomo ha un rapporto molto più faticoso. Sì, alle volte può succedere che siamo sconvolti dagli eventi naturali, come il caso per esempio del terremoto dell'Aquila dell'anno scorso. Abbiamo qui un bel documentario nel quale una ragazza che è soprannominata Terremoto fin da quando è piccola, improvvisamente dal 6 aprile dello scorso anno non sarà più soprannominata Terremoto, perché tutta la sua società, lei vive proprio vicino all'Aquila, viene sconvolta da un evento drammatico. Sentiamo magari un pezzettino. Mi chiamo Marta e ho 12 anni. I miei parenti mi hanno sempre chiamata Terremoto perché non c'è proprio verso di tenermi ferma. Soprattutto la zia Lusana, che abita a Torino ed è la mia preferita. bambina terremoto. Ciao, sono Luciana. Senti, e perché non vieni a trovarmi a Torino? E dai, vieni qua, siamo tutti bugionen qua, ci vuole qualcuno con un po' di brio, un po' di energia. E ci sono solo io, capisci? È troppo poco. Dai, ma, ti aspetto. Ma Antonella, questa è la Luciana di Tizzetto. Sì, altra voce famosa, Luciana di Tizzetto. È certo. Finita dentro il Festival della Scienza, come mai? Ebbene sì, suo malgrado. Come mai? Perché è la zia di questa ragazzina, quindi diciamo è questa voce che compare nel documentario, ma poi il documentario prosegue mostrando come in un motto potremmo dire Marta e i suoi compagni di scuola e gli abitanti del suo paese sconfiggono la paura con la cultura, diciamola così, perché Marta e gli altri ragazzi organizzano una mostra sul terremoto e cercano proprio di migliorare il loro rapporto con l'ambiente, conoscendo più da vicino l'ambiente, quindi anche quello che può capitare a dei ragazzi giovani, a delle persone adulte, a una società intera che viene stravolta completamente. Questo è un video, vedo, di Elisabetta Tola, che è una nostra collega, di giornalista scientifica. Sono contento di vedere che un bel l'anno prossimo partecipiamo anche noi. Sì, ma Antonella, per me che sono amante invece dei documentari classici, bellissime immagini, belle musiche, c'è qualcosa? Sì, potrei citarvi sicuramente tutti quelli di astronomia e sul sistema solare, sono una pletora di immagini, una più bella dell'altra, e soprattutto vi direi uno sulle galassie, in particolare sulla nostra galassia, un viaggio che naturalmente non potremo mai fare, un viaggio fantascientifico nella Via Lattea, spostandoci fisicamente con la Terra dalle zone remote dove noi siamo collocati col sistema solare fino a zone più popolate di stelle. Il documentario ci mostra come sarebbe il nostro cielo se fossimo in posizioni più prossime a queste zone ricche di stelle. Non lo possiamo vedere con la radio, però magari possiamo sentire un po' di musica di sottofondo. 200 billion stars, 1 trillion planets. Our Milky Way is like a vast city, and we're about to have an unforgettable night on the town. We're picking up and leaving our quiet suburb. Di essere sulle montagne russe con questa vociona che però parla appunto di una terra che diventa un'astronave e quindi viaggia per il cosmo. Però restando sulla terra, invece vedo qui che ci sono degli splendidi fiumi, un fiume bellissimo. Sì. Abbiamo scelto un bel film sullo Zambezi, fiume che attraversa buona parte dell'Africa e che è un po' una metafora della vita, perché questo fiume dà vita alle civiltà che si affacciano su di esso e anche a tanti animali caratteristici di questa zona dell'Africa. È meraviglioso, le immagini sono splendide. Abbiamo un pezzetto anche di questo per voi. Zambezi. The name itself means great river. Its path cuts through southern Africa, giving life to this ancient continent. È meraviglioso, anche la musica è molto molto evocativa. Eravamo già sul fiume Zambezi, sì. Dice che appunto significa il grande fiume. Esatto. Potrei anche dirvi di non preoccuparvi se sentite l'inglese, perché quando sarete in sala avrete i sottotitoli in italiano, ecco, certo. Quindi nessun problema da questo punto di vista. Tutto è sottotitolato in italiano oppure tradotto in italiano in doppiaggio. Ecco, Antonella, tornando a questa edizione che è appunto speciale, la 15ª è così importante, voi avete due temi importanti che sono appunto legati all'anno, il 2011 che è l'anno internazionale della chimica e l'anno delle foreste, e so che voi avete una programmazione ad hoc su questo, no? Esattamente, sì, abbiamo colto l'occasione del centenario del Nobel di Marie Curie e contemporaneamente anche abbiamo accolto questo anno delle foreste dedicandogli la sessione speciale della domenica dedicata ai film per i ragazzi, per i bambini, con una bella favola ecologista, La foresta magica, che è anche per gli adulti, che possono accompagnare i loro piccoli, in omaggio al 2011 anno delle foreste. Dal punto di vista dell'anno della chimica, ovviamente avremo un bel film su Madame Curie con cui apriamo, abbiamo un bel film su Irene, perché se Madame Curie ha vinto due Nobel, sua figlia Irene ne ha vinto a sua volta un altro, 35, E poi toccheremo sempre per la chimica, ad esempio la figura di Lavoisier e altre figure, diciamo, meno famose, ad esempio l'alchimista Zenone, alchimista che è vissuto nella Spagna del Cinquecento. Ecco, l'altra bella novità di quest'anno sono il cambiamento di sedi, o meglio, si sono ampliate. Sì, quest'anno abbiamo due sedi, faremo il programma tradizionale di tutti i film, fiction, documentari, video allo Spazio Oberdan, come d'abitudine, e poi avremo sessioni speciali alla Mediateca Santa Teresa di Via Moscova, una sessione speciale dedicata ai film della ricerca scientifica del nostro Ateneo, altre due sessioni speciali in particolare sui frutti della collezione Garnier Valletti, e poi per tutta la settimana il pubblico liberamente può entrare in Mediateca negli orari di apertura che trovate tranquillamente sul sito, e andare a vedere in postazione singola una selezione di film sui temi Anno della Chimica, Scienza e Scienziati dall'Unità d'Italia ad oggi. In collaborazione con le Tech Rai, sì. Con le Tech Rai, sì, sì. È proprio una selezione tratta dall'archivio di Rai, che sono film che altrimenti difficilmente sono disponibili, si possono vedere direttamente dall'archivio. Ricordiamo che gli indirizzi che tu hai dato sono indirizzi della città di Milano. Chiudiamo. Stiamo andando in paradiso, cosa dici? Paradiso ritrovato è il titolo di uno dei film sul secondo tema principale dell'edizione di quest'anno, Fiori, Parchi e Giardini. Il giardino che vedete, che vi porterò a visitare, è un giardino piacevole all'occhio, un giardino sano, un giardino felice, un giardino dove non è mai entrato nulla di chimico, né mai entrerà, non ce n'è bisogno, perché si è creata armonia fra quello che è il mondo vegetale e il mondo animale. Le piante ricordano, una volta un geranio mi raccontò, questo però non possiamo ancora dirlo. Questo non possiamo svelare cosa ti disse. No. Va bene, allora dal 2 all'8 maggio, Vedere la scienza a Milano. Grazie Antonella. Grazie a voi. Ciao Antonella. Saluto agli ascoltatori. Buon lavoro. Ciao anche a voi. Ciao. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Ve l'ho già detto prima, ma ve lo ridico adesso. Voi ci inviate le vostre domande, strane, pazze oppure sensate, e Mebius cerca di rispondervi. Come ce le inviate? Beh, abbiamo un indirizzo, mebius@radio24.it, moebius@radio24.it, vi ricordo la scrittura, oppure andate al nostro profilo su Facebook digitando Mebius Scienza. Sentite che cosa ci ha scritto questa settimana l'ascoltatore Paolo. E attenzione, perché la soluzione del quiz la trovate fra pochi minuti. Gentile redazione, ritiene fattibile o possibile elettrificare le autostrade e incentivare il trasporto pesante ad installare motori ibridi in modo da farli viaggiare come le filovie urbane? Paolo. E adesso andiamo da Dario Zaninelli, che tiene il corso di sistemi elettrici per i trasporti al Politecnico di Milano. Buonasera Zaninelli. Buonasera a voi. E lei, Zaninelli, ci deve spiegare se insomma è possibile o se è uno scenario veramente creato nella mente dei nostri folle ascoltatori. Sembrerebbe sensato, però, detto così. È possibile. Però? Beh, tecnicamente è possibile, cioè fare un corridoio elettrificato, tipo corridoi che vediamo nei filobus delle città, solo che tecnicamente, dal punto di vista tecnico-economico, appare ad oggi insostenibile, in quanto le potenze richieste sarebbero elevatissime e sarebbe necessaria tutta una serie di sottostazioni elettriche per alimentare questi mezzi, e quindi come quasi fosse una nuova ferrovia, una strada anzi con potenze molto maggiori della ferrovia, visto il traffico pesante e la frequenza dei mezzi sull'autostrada rispetto a quello che può essere un traffico ferroviario. Ecco, perché lei prima diceva ci vogliono potenze elevatissime, però è chiaro che qui chi ci ascolta dirà va bene, ma abbiamo i treni. Però lei sta dicendo anche che i treni, quando sono lunghi, sono un chilometro, qui e potremmo qui i camion sarebbero code un treno di 200 chilometri in alcuni punti, no? Esatto. E questo è il punto? Questo è il punto, quindi, che necessiterebbe di una infrastruttura impiantistica anche dal punto di vista elettrico considerevole. e poi anche ovviamente la costruzione di cavi per un percorso così lungo sarebbe forse dispendiosissimo. Cioè, non prima che ammortizziamo quell'investimento, forse? Infatti è un investimento molto, comunicato, molto pesante, e poi anche questi cavi dovrebbero essere cavi di sezione consistente, dovrendo portare una corrente molto elevata per alimentare potenze elevate. Bene, quindi dal punto di vista economico non ci siamo, però insomma l'idea non era malissimo. No, perché certo tutta la roba che butta, tutta la CO2 che buttano in aria i camion non è male, però insomma ne produciamo molta di più per farli andare con l'elettricità. Esatto, dipende dalla fonte di energia, ecco. Se la fonte di energia è, come adesso lo scenario energetico italiano, per i tre quarti dovuta ai combustibili, allora la produciamo. Se la fonte di energia fosse invece diversificata, uno produce meno CO2. Tuttavia l'idea, per dire che l'idea comunque è un'idea che ha un suo criterio di fondatezza, è che attualmente alcune città, attualmente si stanno oggi, per esempio Roma, nella Eurtor De Cenci, si sta orientando su questo corridoio della mobilità, dove in pratica sono corridoi di filobus per il trasporto di persone riservati. Questi filobus poi hanno, questo anche a Milano, una certa autonomia attraverso dei sistemi di accumulo oggi a supercondensatori, che è una tecnologia abbastanza nuova, per cui possono anche uscire leggermente dal loro tracciato per alcuni minuti e rientrare, oppure nel caso ci fossero interruzioni per manutenzioni o per traffico, e quindi poi riprendere la linea elettrificata. Beh, quindi questa è una bella idea anche per altre città, insomma, questa potrebbe essere una buona idea da sviluppare. Questo aspetto è un aspetto interessante, tanto è vero che si sta riscoprendo questo aspetto anche nella progettazione dei trasporti urbani. Va bene, per il momento i camion bus li lasciamo un po' in sospensione e vediamo in futuro. Grazie Daninelli. Grazie a voi, molto gentili, grazie. Grazie, arrivederci. Oh, dunque, quest'autunno andiamo tutti a Washington. In verità non tutti, anzi esattamente l'opposto, perché non si sa come mai, ma noi italiani non ci siamo mai andati. Dove? Alla Solar Decathlon. Questa è la competizione di cui vi devo parlare. Lo faccio con Chiara Tonelli. Buonasera Tonelli. Buonasera. Dell'Università Roma 3, Facoltà di Architettura. Allora, io dicevo tutti a Washington, in realtà invece esattamente l'opposto. Questa Solar Decathlon è una gara di cui adesso parleremo, che si è tenuta nel 2002, 2005, 2007, 2009. È una gara dove è implicata l'architettura e il design, una tradizione italiana piuttosto consistente, e però non so, adesso spendiamo pochi secondi per dire come mai non ci siamo mai andati prima, un po' singolare, non trova? Guardi, me lo chiedo anch'io, sinceramente dovrebbe chiederlo ai miei colleghi, perché noi abbiamo concorso appunto nel 2010 e siamo il primo team italiano che riesce a entrare in questa competizione. Questo è un mistero che risolveremo in altra occasione. La gara, la competizione è veramente singolare, perché si va a Washington e si costruisce una casa. Vera. Sì, esattamente, sì, la gara è così, in realtà si predispone un progetto, cioè sia il team che concorrono, sono 20 team universitari da tutto il mondo, hanno un anno e mezzo per progettare e costruire una casa che poi smontano e portano nel luogo di gara, dove viene rimontata e viene sottoposta a 10 test. A 10 test e poi si vede, ecco, è una gara di sostenibilità della struttura architettonica. Le chiedo, il fatto che sia smontabile fa parte della gara? Cioè voi dovete progettare un edificio in pratica precostruito, trasportabile, oppure no? Assolutamente sì, è proprio il concetto di casa industriale, quindi deve essere una casa che può essere prodotta rapidamente, quindi con sistemi industriali, e tutti i sistemi costruttivi industriali prevedono dei sistemi poi di assemblaggio per cui consentono il montaggio veloce. Ora è chiaro che la smontabilità è una condizione invece specifica del concorso, cioè della settimana di gara, perché ovviamente si smonta solo perché poi va riportata via. Normalmente le case si pensa che restino un po', però comunque se uno ipotizza situazioni di emergenza come utilizzo, il fatto che si possa smontare è comunque un requisito utile. È un requisito utile. Vedo che le dimensioni hanno un loro intervallo, no? Un minimo e un massimo. Sì. Sono case molto piccole, sono prototipi di abitazione piccoli, per cui il concorso impone tra i 45 e i 70 metri quadri. Noi col nostro prototipo ci stiamo attestando quasi al minimo, 47, anche perché i costi di trasporto sono onerosi e quindi conviene ovviamente limitare i pesi e le spese di trasporto. Ecco, perché naturalmente tutto ciò ha dei suoi costi, questo potrebbe anche essere un motivo che limita la partecipazione, dovete provvedere voi i costi. I costi dobbiamo provvedere noi, il concorso, l'ammissione al concorso è praticamente una vittoria perché dà diritto a 100.000 euro, però la concezione e poi la realizzazione di una casa di questo genere che raccoglie in sé molta innovazione, ovviamente dei costi più alti della produzione poi a regime, quindi noi dobbiamo concepire un progetto, testarlo, riprodurre parti, ricostruirle, riprovarle, e questo costa molto. Noi adesso al momento ci stiamo attestando su un costo globale di tutta l'operazione che va su 1 milione di euro. Io qui ho davanti alcuni disegni, schizzi del vostro progetto e leggo le didascalie: comportamento estivo diurno, comportamento estivo notturno, comportamento invernale diurno e poi anche l'invernale notturno. Quindi questa casa ha diversi comportamenti. Beh, insomma, questo adesso ce lo spiega. Come mai? Questo è ovvio, no? Voglio dire, viviamo, benché si dica che non ci sono più le mezze stagioni, in un anno solare in cui cambiano il clima, cambiano le sollecitazioni a cui un'abitazione è sottoposta, ed è evidente che bisogna far fronte a tutte. Ora, fino ad oggi si è fatto molto sperimentazione sul resistere al freddo invernale, ci sono tantissimi modelli, per esempio la Passive House, insomma, che funzionano molto bene, quindi forte isolamento, molta chiusura, case quindi estremamente compatte in cui effettivamente il problema del freddo si argina. Purtroppo noi andiamo verso il global warming, quindi problemi di surriscaldamento di tutti i paesi, non soltanto di quelli mediterranei, di quelli delle fasce del sud, e quindi fare fronte ai problemi del caldo è più importante. Quindi noi ci siamo posti la sfida di affrontare anche il regime estivo, che è un regime molto più difficile da considerare, perché se la temperatura invernale è più costante, si può ipotizzare come essere più costante, quella estiva invece è molto variabile tra il giorno e la notte, quindi comporta che la casa abbia un assetto variabile, quindi un comportamento dinamico, cioè si modifichi, tant'è vero che tutti lo sappiamo in maniera così pratica, no? Tutti apriamo le finestre la sera, le chiudiamo e abbassiamo e oscuriamo di giorno, facciamo tutta una serie di mosse all'interno della casa, azioni che derivano da una tradizione d'uso, no? Sì. Che però una casa tecnologica innovativa nuova dovrebbe fare in maniera automatica. Quindi noi stiamo cercando di progettarla perché tutto questo si possa controllare e perché la casa possa in qualche modo funzionare bene e consentire buone condizioni anche in estate senza necessariamente dover attivare l'aria condizionata. Sì, però aspetti che c'è una cosa un po' strana, buffa, cioè in che senso un comportamento dinamico? Cioè cosa fa? Si modifica proprio strutturalmente? Questo, il comportamento dinamico, sottende un concetto diciamo di calcolo, che è un calcolo dinamico, perché non mantiene statica la temperatura esterna, muovendosi quella si muove l'algoritmo che verifica, insomma, diciamo il suo comportamento dal punto di vista fisico-tecnico, però sicuramente la casa si muoverà, nel senso che i sistemi di oscuramento, i sistemi di ombreggiamento, cioè la possibilità di schermare la radiazione luminosa in estate e in inverno saranno diversi, e saranno diversi nelle diverse ore della giornata. Quindi ha dei componenti, delle parti che non sono fisse, insomma, possono avere delle componenti che non sono fisse, e ha un funzionamento poi impiantistico che ovviamente non è fisso, perché innescherà dei moti convettivi dell'aria in funzione delle esigenze, cioè se aumenta per esempio il numero di persone dentro la casa si attivano dei sistemi di raffrescamento, per esempio in estate, diversi che se la casa è vuota. Ok. Vedo anche che si parla di materiali particolari da utilizzare, no? Tanti materiali diversi. Sì, dunque noi partiamo da un concetto tradizionale, quindi la nostra casa mediterranea è lo spunto, e per questo le facevo anche riferimento ai sistemi di oscuramento che si utilizzano normalmente nel Mediterraneo. Noi partiamo da un concetto che la casa mediterranea ha dei muri molto grossi, grandi pareti, capaci di trattenere il calore al loro interno, perché hanno quella che si chiama massa con capacità inerziale, quindi la capacità di tenere il caldo durante il giorno. Il muro di qualsiasi casa storica lo trattiene all'interno e lo rilascia soltanto la sera, cioè dopo molte ore, quando praticamente lo rilascia dove? Al di fuori, dove ormai la temperatura è più fresca e quindi l'interno rimane isolato in qualche maniera, in un modo diverso dall'isolamento, isolato dal calore estivo. E noi riproponiamo questo sistema, però ovviamente dovendo fare una casa che si trasporta non potevamo fare i muri di pietra, quindi abbiamo realizzato delle strutture contenitore, che sono strutture in legno leggere, smontabili, che una volta montate vengono riempite con un materiale trovato nel luogo. Ci siamo orientati sulle sabbie, per esempio, oppure su tutti i materiali cosiddetti piroclastici, che sono materiali di origine vulcanica che nel Mediterraneo sono presenti quasi ovunque, quindi di facile reperibilità, che vanno a riempire queste casseforme, le chiamerei, insomma, questi contenitori, in maniera da ricostituire un muro con un materiale sciolto, un materiale a grani. Essendo una casa trasportabile, credo che questa possibilità, insomma, di avere un oggetto con tutte queste attenzioni alla vivibilità sia un elemento distintivo importante, perché se c'è una cosa che bisogna dire è che spesso e volentieri questi prefabbricati poi dopo hanno dei comportamenti rispetto all'ambiente circostante che sono un po' pessimi, insomma ci sono dei momenti dell'anno in cui diventano invivibili, un po' come le tende quando si va in camping che alle 6 di mattina bisogna buttarsi fuori, se no si finisce. No, così. È molto importante questa casa anche che si sappia inserire nel contesto senza deturparlo. Consideri che noi abbiamo intanto poi soprattutto questa struttura che ho un po' descritto, c'è una grande copertura fotovoltaica, quindi si produce molta energia, molta di più di quella che serve in realtà per far funzionare la casa bene e quindi per riscaldarla, per raffrescarla, per alimentare la cucina, per far funzionare tutto. E quindi noi già con questa copertura suppliamo al fabbisogno non tanto della casa quanto di un ambiente circostante. Mm-hmm. E poi comunque tutta l'acqua, per esempio, che si utilizza, se consideriamo 100% di acqua, l'80% di quell'acqua viene riciclata all'interno della casa, cioè riutilizzata per altre funzioni, lavatrici, sciacquoni, i gabinetti e così via. No. Chiara Tonelli, facciamo che quando siete a Washington in autunno, in ottobre, poi ci chiamate, ci dite come va e magari ci raccontate un po' anche delle altre case. Facciamo così. Senz'altro, molto volentieri. Grazie, augurazzi per la vostra avventura e ci sentiamo presto. Vi ricordo ancora che se volete inviarci le vostre domande di scienza l'indirizzo è moebius@radio24.it oppure su Facebook dove siamo come Moebius Scienza. Buona settimana a tutti e tutte. Moebius si chiude qui, ci ritroviamo fra 7 giorni.